Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera a tutti, sono anche Palla Spicchi, però insomma abbiamo appena finito di guardare, lo confessiamo candidamente, il derby di Roma, quello del calcio, dove la Roma di calcio si è costruita una buona parte della sua chance tricolore, scesa dal mortirolo, dal suo personalissimo mortirolo, qual era il derby di oggi, con la maglia rosa sulle spalle dopo un primo tempo di enorme sofferenza e di formazioni sbagliate, quella di Ranieri che ha messo il tridente concedendo la superiorità numerica al centrocampo della Lazio, ve lo diciamo perché insomma anche chi segue il basket insieme a noi vorrà saperlo. Nel secondo tempo Ranieri cambia tutto, cambia la squadra, toglie alla Roma il suo cuore più romanista, se me lo passate, cioè lascia negli spogliatoi Totti e De Rossi, i due capitani praticamente. E nella ripresa si vede un'altra partita. Floccheri sbaglia a rigore del KO al primo minuto e poi Vucinic invece ne segna uno, quello del pareggio, poi segna anche su calcio di punizione. A questo punto la Roma ha la maglia rosa addosso ed è difficile che nelle ultime quattro tappe grossomodo di pianura, salvo l'ultimo colle che per i giallorossi sarà domenica prossima alla sera alle 20.45 in casa contro la Sampdoria, è ben difficile che l'Inter a questo punto riesca in pianura a togliere alla Roma quella maglia rosa. So già che tutti i tifosi romanisti, romanisti, staranno facendo gli scongiuri, anche quelli della Lottomatica, che invece ha perso in modo pessimo questo weekend del derby romano, perdendo in casa contro Varese 64-71 e, come diceva Asa Nikolic, dando un bel calcione al secchio di latte appena riempito nelle ultime partite, soprattutto da una classifica che con l'esclusione di Napoli adesso è più realistica, insomma non c'è da stare a fare i conti con chi si ferma un giro e chi invece tira due volte, come abbiamo già detto molte volte. Risultati dunque di oggi, al di là di quello di Roma, ieri Treviso si è in pratica giocata le ultime chance di playoff, secondo me, ma basta guardare la classifica. Perdendo in casa contro la Virtus Bologna, poi oggi all'ora di pranzo l'Armanigis Milano ha vinto a Cremona sul campo del suo vecchio coach Attilio Caio 81-78, e complice l'incredibile, questa sì, sconfitta di Cantù questa sera in casa contro Ferrara 64-76, sono certo sia il risultato più sorprendente di giornata. Beh, secondo posto che diventa un rebus pazzesco. Così come diventa un discreto rebus anche l'ultimo posto valido per la permanenza in Serie A, perché sull'ultimo gradino troviamo a questo punto la coppia Ferrara-Cremona, con Cremona che ha i confronti diretti favorevoli, ma è ancora tutto tremendamente in bilico. Siena vince a Montegranaro 92-86, quindi vince ma non domina a Montegranaro, anzi, come ci diceva prima Dario Ricci, Montegranaro era in vantaggio nel primo tempo, ha provato a controllare nel primo tempo la partita. La Scavolini si fa un bel regalo battendo Biella 79-61 e insomma è salita sul treno buono, quello che porta alla salvezza, c'è cioè un bel gruppo a quota 18. Quindi detto di Cantù che ha perso in casa con Ferrara, c'era il derby campano. Lo ha vinto Caserta 81-79 e a questo punto io lascio a Dario Ricci la classifica, che dovrebbe essere comprensiva di confronti diretti che credo che alla fine peseranno non poco nel definire una situazione così ingarbugliata che gli dei playoff. Allora, classifica che vede la Montepaschi in testa con 46 punti, poi il gruppone a quota 30 che vede nell'ordine Pepsi Caserta, poi Cantù, Armani Jeans Milano, Canadian Solar Bologna e poi a 28 invece al sesto posto la Sigma Coatings Montegranaro, settima la Lottomatica Roma 26, 22 punti per l'Aila Avellino e queste sarebbero le 8 al momento qualificate per i playoff. Al nono posto la Benetton Treviso a quota 20 con 18 punti, Scavolini Spar Pesaro, Banca Tercas Teramo, Cimberio Varese e Angelico Biella chiudono a 14, Vanoli, Cremona e Carife Ferrara. Dunque adesso andrei sul derby campano, perché Treviso adesso deve fare la corsa su Avellino che è lontana soltanto 2 punti, mentre per questi risultati la Pepsi Caserta torna seconda. Carmelo Prestisimone, buonasera. Sì Carlo, buonasera, lo ricordavi tu, non c'è più Napoli, ma in Campania ci sono Caserta e Avellino che oggi hanno dato vita ad un derby davvero molto avvincente, molto equilibrato, che si è concluso con la vittoria di Caserta 81-79, partita molto equilibrata per 35-36 minuti, poi i ragazzi di Sacripanti sono stati chirurgici, hanno piazzato dei canestri importanti soprattutto dalla distanza, dai tre punti, con due bombe di aereo, una di Martin negli ultimi 4 minuti, Martin che meritatamente si sta guadagnando spazi e minuti importanti. Caserta perché ha vinto? Caserta ha vinto soprattutto perché si è giovata di un Jumaine Jones davvero strepitoso, 25 punti, 5 su 6 da 2, 4 su 7 da 3, 35 di valutazione finale per l'ala ex Lakers. Avellino ha giocato una buona pallacanestro soprattutto nel primo tempo, proprio quando Dee Brown, anche lui ex NBA, ex Washington, non ha fatto canestri. I suoi 16 punti sono distribuiti nel terzo e nel quarto periodo. Discreta ma assolutamente lunatica la gara del playmaker americano. Invece più che buona quella di Akiol. Avellino ha trovato il suo tiratore principe, 21 punti, 5 su 6 da 2, 3 su 6 da 3 per l'esterno turco, 19 di valutazione finale. Buona anche la partita di Shevchik, 13 punti e 14 rimbalzi, di cui 11 difensivi, doppia doppia per il pivot polacco, anche lui lunatico, oggi molto presente sotto i tabelloni nel primo tempo, meno invece negli ultimi 20 minuti. Quindi Caserta ritorna seconda insieme appunto a Cantù Milano e la Virtus, mentre Avellino resta ottava. A te. Grazie a Carmelo Prestisimone. E il basket del Sud, lo sapete, in questo weekend ha trovato un'altra protagonista storica con Brindisi, che è tornata matematicamente in Serie A nel basket che conta, una piazza che adesso chiede un palazzo dello sport, perché sarà difficile la prossima stagione tenere quell'entusiasmo lontano dalla squadra, in una stagione che ha visto tutto il casino di Napoli. Ci voleva Brindisi in Serie A, per, non mi piace usare la parola onore, però per l'immagine, diciamo, del basket del Sud. Dario, diamo un'occhiata alla notizia più incredibile, la notizia a spicchi più incredibile della giornata. Eh sì, il successo in trasferta di Ferrara sul campo di Cantù, una Ferrara che di fatto è sempre stata avanti, 11-17, 26-32, 45-49 i parziali, fino al 76-64 finale in casa ferrarese. Beh, decidono sicuramente i 21 punti in 31 minuti di Sherrod Ford, 7 su 12 da 2, 1 su 1 da 3, anche 3 rimbalzi, una e una stoppata per oltre a 3 assist per Sherrod Ford, ma soprattutto sorprendono i 13 punti in 21 minuti di gioco di Valerio Mazzola, 3 su 5 da 2, 2 su 2 da 3 e anche 4 rimbalzi. Completano il tabellino i 7 punti di Farabello, gli altrettanti di Valerio Spinelli e poi gli 8 punti di Brian Sacchetti. Non bastano invece a Cantù i 17 punti in 36 minuti per un 24 di valutazione di Mikoz, 5 su 6 da 2, 1 su 4 da 3 punti, 12 punti di Marco Svili e i 12 del cardinale Mazzarino. Carlo, palla spicchi. Sono andato a Pesaro, dove la Scavo Spar si è fatto un bel regalo, credo, Mirko Facenda. Mirko? Il regalo è un passo importante, direi, ancora una volta verso la salvezza, asfaltando l'Angelico Biella. Una Scavolini Spar che è partita subito forte, dopo 2 minuti già conduceva 10-0, un'impronta davvero forte in difesa da parte della formazione di coach Luca Dalmonte. Un Angelico che si è riavvicinata con 2 triple di Massimo Chessa fino al 22-19, poi da lì è stato un vero e proprio crescendo rossignano, con la Scavolini Spar che ha toccato anche il più 30, 7-3-43. Una Scavolini Spar che ha avuto l'atteggiamento giusto, un Angelico Biella onestamente preoccupante, quella vista a Pesaro è la brutta copia della squadra che siamo tutti abituati a vedere. Per quanto riguarda il nuovo arrivo, Trey Johnson, 23 minuti in campo, 12 punti per lui, chiaramente un giocatore completamente spaesato e ci sta, visto che in Italia da 2 giorni probabilmente ancora non saprà nemmeno tutti i nomi dei suoi compagni. Comunque un giocatore che sicuramente potrà dare una mano a questo Angelico Biella, che ripeto è apparso proprio la brutta copia della squadra che siamo abituati a vedere, squadra che butta il cuore oltre l'ostacolo, una squadra che ha grinta, cattiveria, davvero brutta. Dall'altra parte una Scavolini Spar invece che ha cominciato al meglio questo trittico, che la rivedrà in campo mercoledì 21 aprile alle 20:30 contro Bologna e poi la rivedrà domenica a Teramo. Chiaramente la partita di mercoledì è anticipata per le Final Four di Euro Challenge Cup che si svolgeranno dal 30 aprile al 2 di maggio a Göttingen. Grazie Mirko Facenda, io vi voglio far sentire, so che è palaspicche ma è una battuta di Ranieri. Non la squadra, non contano i sistemi di gioco, contano i giocatori come stanno in campo. Noi stavamo non al 100% con Daniele e con Francesco, ho preferito toglierli. Sì, intanto ecco, avete visto le immagini che vi raccontavamo proprio di Tagliavento che predicava calma. Ultima cosa, prima dello studio, la Roma di questo secondo tempo può essere la Roma delle ultime partite? Ma non lo so se questa è la Roma delle ultime partite. Lo spirito è questo, stavamo sotto di un gol, volevamo vincere e io credo che la molla è stato proprio il rigore parato che ha dato entusiasmo, coraggio e voglia di reagire. Fabio, questo è Ranieri. Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera, c'è un'altra Roma che invece mi sembra la mucca di Nikolić. Sì, ha dato un calcio al secchio del latte che aveva riempito, anche se non aveva finito di riempirlo. Io non ho visto la partita di Varese, ho visto quella contro Varese, ho visto quella di Teramo di domenica scorsa. Onestamente è una vittoria contro Teramo meno scintillante di quello che poi dica il risultato, può anche benissimo essere una sconfitta contro Varese meno drammatica di quello che sembrerebbe indicare il risultato stesso. La verità è sempre quella, secondo me, della seconda giornata, per non dire della prima. Levi Napoli, levi Siena, il resto lo rimischi, ma più o meno quello è. Più o meno quello è, anche se ti dico che Cantù oggi è stata sorprendente la sconfitta interna contro Ferrara. Ti confesso, tu sai che venerdì c'era qui Cosce Recalcati, no? C'era Recalcati che al microfono spetta e diceva: ma secondo me Cantù arriva seconda, nessuno è in grado di vincere al Pianella in questo momento. Detto fatto, arriva Ferrara e fa un'impresa che può valere la stagione. Guarda, io penso che ci sia stato un periodo in cui Caserta era decisamente la seconda forza nel girone d'andata, poi un periodo in cui Montegranaro era decisamente la seconda forza, poi un periodo che forse finisce oggi, forse no, ma sicuramente è stato in vigore fino più o meno alle 18 di oggi, in cui Cantù era decisamente la seconda forza. Però è ovvio che se andiamo a vedere poi i nomi e il valore reale del roster, non possono essere la seconda forza. Hanno avuto un momento in cui erano in uno stato psichico, fisico, di ispirazione, per cui erano la seconda forza. Però quando i valori sono così vicini tra la seconda e la penultima, può starci benissimo un risultato come quello di oggi. Io non credo che Trichieri sia così, per dire, sorpreso da aver perso contro Ferrara. Certo, a questo punto di capire chi sarà la penultima forza, no Flavio? O l'ultima, dipende come si legge la classifica, insomma. Questo è molto complicato e se davvero Ferrara dovesse riuscire a vincere al prossimo turno comincerebbe un'autentica Royal Rumble, perché a quel punto entrerebbero dentro nel discorso anche altre squadre e Biella è una di quelle squadre che deve stare decisamente attenta, anche perché è quella che ha il trend peggiore tra tutte le ultime. Sì, se prendiamo, diciamo, dopo la sesta settima giornata è decisamente quella che ha fatto peggio. Qualità del gioco che stiamo vedendo, Flavio, direi piuttosto bassa, al netto di quello che si è visto a Treviso, perché lo metterei direttamente tra i non classificabili. Sì, più che altro se pensiamo che io credo che sia la metà campo difensiva a essere quella che soffre di più per come sono costruite le squadre, per il tasso di turnover che c'è, è praticamente impossibile costruire una difesa. E allora pensare a squadre che sono costruite quasi esclusivamente in chiave offensiva, e c'è una partita che finisce 61-50, ci sono partite che normalmente vanno a incasellare 40 se non 45 palle perse come oggi a Cremona, allora sicuramente il livello non lo possiamo definire alto. Poi non per questo dobbiamo fustigarci, non per questo dobbiamo dire che non bisogna guardare le partite, non per questo bisogna dire che è un disastro. Però se dicessimo che questo è alto livello, secondo me saremmo veramente semiciechi. Ci consoliamo, viene da dire, con storie di confine di provincia che sono un po' sale nel nostro basket, soprattutto in questo momento, come quella di Brindisi, no Flavio? Un mondo che si muove, quello brindisino, che va a festeggiare una promozione, la richiesta forte di un palazzetto nuovo, una piazza storica che torna. Questo è il nostro basket adesso, viene da dire, Flavio. Beh, direi che se andiamo a vedere l'ultimo quindicennio è un dominio sull'asse sostanzialmente Treviso-Siena. Certo, è vero che c'è stato un periodo di grande fulgore a Bologna, però la sostanza è che lasciamo perdere il quindicennio, il decennio è mezzo trevigiano e mezzo senese, quindi le dimensioni di Brindisi e la passione di Brindisi fanno sì che questa sia la dimensione, ma non va vissuto in maniera negativa, è semplicemente un dato di fatto al momento. Darei un'occhiata con te anche ai playoff NBA che sono cominciati l'altro giorno. Ti ho fatto fare il tabellone, mi scuso con te, ti ho sottoposto a una croce non da poco, però era divertente e soprattutto ero curioso di sapere quali erano le tue impressioni. Tu hai dato, me lo ricordo bene, hai dato il ribaltamento del fattore campo in una serie che credo possa essere la più equilibrata del primo turno, quella tra Boston e Miami. Per il momento Boston ha vinto la prima partita, però si conferma una serie terribile, io credo. Sì, secondo me si conferma una serie dura per Boston, anche perché Boston io penso abbia la necessità, io ti ho detto come idea, o vince Boston 4-1 e riesce a chiudere il discorso in 4-5 partite, o più si va avanti più crescono le chance di Miami. Io presumo che Garnett verrà sospeso dopo l'espulsione alla gomitata a Quentin Richardson, quindi le possibilità per Miami di provare a vincere gara 2 sono notevoli, e quella mi sembra la partita della serie. Se i Celtics vanno 2-0, poi per Miami è difficile. Tornare invece per gli Heat in Florida 1-1 fa crescere le loro chance. Sì, anche un giocatore come Kevin Garnett che fa quello che ha fatto fa pensare sullo stato mentale di Boston. Un pochino sì, posto che comunque Garnett è questo nel bene e nel male, cioè è sempre talmente al limite che in una situazione del genere, in cui magari non è al 110% fisicamente, in cui la stagione è stata complessa, quel limite lo supera, perché lui per essere Garnett deve comunque vivere a un millimetro dalla linea, sì, ed è un attimo superarla. Sì, magari forse è stato anche un segnale che ha voluto lanciare al resto del roster, piuttosto distratto, diciamo così, Flavio, in questa ultima parte di regular season. Leggo qualche numero e poi andiamo alla domanda. Rose 28 punti, James 24, Carmelo Anthony 42, Deron Williams 26, Brandon Jennings 34. Ma insomma, allora è vero che questi durante la regular season si riposano? Ma non è che durante la regular season si riposano, è che la regular season è 82 partite, se non misuri lo sforzo non c'è nessuna possibilità A di arrivare vivo ai playoff e soprattutto B di giocare i playoff per poter combinare qualcosa, quindi lo sforzo va misurato, però sarebbe un modo sbagliato di guardare all'NBA tempo perso fino alla fine della regular season e poi tutto straordinario nei playoff. Playoff sono bellissimi, la regular season non è a livello dei playoff, chi sa cercare però trova delle gemme anche nella stagione regolare. Flavio, grazie, sentiamo venerdì. Grazie a voi. Grazie a Flavio Tranquillo, noi chiudiamo qui anche Palla Spicchi, vi lascio Dario Ricci per gli appuntamenti serali con lo sport, grazie anche a Roberto Scaltritti per il lavoro in regia. Gigi Garanzini domani alle 2.